Allora, noi siamo partiti da Santa Maria del Soccorso, oggi intorno alle 8.39 più o meno, abbiamo deciso di fare una manifestazione di sensibilizzazione nel quartiere Tiburtino. E sostanzialmente siamo vari gruppi radicati in quella zona, centro di coordinamento è l'Intifada, il centro sociale Intifada, poi il gruppo Scantiamo le Scorie, Tiburtino Decogliamo, l'associazione Radici e vari partiti, sedi di partito localizzati lì nella zona del Tiburtino. Niente, sostanzialmente si è partito con l'idea di sensibilizzare l'opinione pubblica lì nel quartiere e poi di procedere ad un ricompattamento verso Porta Maggiore con gli altri gruppi e il movimento Pink. Cosa sta succedendo adesso a Via dei Reti? Guarda, qui la situazione tranquillissima, c'è una manifestazione pacifica, non violenta, si sente comunque la partecipazione della gente, in particolare in questo quartiere qui a San Lorenzo, e si sente comunque un'adesione da parte della popolazione, anche se magari più timida nello scendere in piazza. E niente, ora siamo in procinto di ricontattarci e riaggregarci ai vari gruppi che sono lì fermi a Porta Maggiore.